Abbiamo preso la parola perché domenica scorsa c'è stata un'assemblea del coordinamento in cui erano presenti molti lavoratori interinali sia della SDA che di altri magazzini dell'Interporto, che sono loro ad aver sentito il bisogno di prendere la parola e di innanzitutto tentare di dire la verità sulla dinamica dell'incidente che è capitato a Iaia, dimostrare come quella dinamica sia qualcosa di assolutamente ordinario rispetto a ciò che succede dentro la SDA, così come in altri magazzini, raccontare tutta una serie di questioni che riguardano sia lo sfruttamento sia come la sicurezza dentro al comparto della logistica viene costantemente trascurata. Quello che emerge è che la sicurezza viene appunto trascurata, ci si può fregare della sicurezza dei lavoratori proprio perché loro sono lavoratori migranti, lavoratori interinali che hanno contratti di una settimana e che sono in buona sostanza, possiamo dire che sono invisibili. Queste sono le condizioni che permettono che accadano questi incidenti. Come dicevi tu, non è la prima volta che succede, ci sono incidenti costantemente dentro la SDA come in altri magazzini, ci sono incidenti anche prima, come noi denunciamo da anni, prima di entrare al lavoro, perché tantissimi di questi ragazzi vanno all'Interporto o in bicicletta, in monopattino, in qualsiasi stagione, e le strade sono molto pericolose. C'è una relazione che sottolineate tra il permesso di soggiorno e gli incidenti sul lavoro, che dipendono proprio dalla necessità che i migranti e le migranti hanno di lavorare per poter continuare a restare in Italia. Sì, esatto, questo è il nodo centrale che emerge costantemente quando si parla con i migranti, quando si parla di lavoro migrante e di lavoro interinale. Quello che emerge è che dopo questi anni di pandemia, in questo momento la situazione dell'Interporto di Bologna e non solo a Bologna, come dire, si sta ulteriormente trasformando. Nel magazzino dove lavorava Iaia, gli interinali, che sono appunto in buona parte se non tutti richiedenti asilo e non sindacalizzati, ormai rappresentano una quota decisiva della forza lavoro e sempre di più. Tutto quel lavoro viene, come dire, prestato dietro il ricatto istituzionale del permesso di soggiorno. Nei giorni scorsi, cioè sabato scorso, c'è stato un corteo a Ferrara, perché Iaia abitava a Ferrara, su iniziativa di alcuni suoi amici e colleghi. Loro hanno partecipato anche all'assemblea del coordinamento di domenica scorsa e tutti dicevano: noi tendenzialmente lavoriamo per raccogliere nell'agricoltura, quando non è stagione, non è il momento di raccogliere, andiamo all'Interporto a fare un altro periodo. Questo dobbiamo farlo perché abbiamo bisogno di accumulare, come dire, ore, oltre che quei due spicci che ti danno per rinnovare il permesso. Quello è un lavoro che non si spiega altrimenti senza, come dire, il nodo del permesso di soggiorno. Come ovviamente dite da molto tempo, bisognerebbe superare la legislazione che vincola il permesso di soggiorno al lavoro. Volevo chiederti un'altra cosa, perché in passato avevate denunciato anche il fatto che il reclutamento stesso di questi ragazzi, questi migranti, avveniva fuori dai centri d'accoglienza proprio per praticare contratti interinali. È una cosa che avviene ancora? Sì, sì, è una cosa che avviene ancora e direi ormai una pratica diffusa sicuramente in tutta l'Emilia Romagna, nel senso che le agenzie del lavoro, che vengono appunto contattate dalle cooperative della logistica, hanno una funzione di mettere a disposizione direttamente la forza lavoro. Quindi significa che appena i migranti arrivano anche da fuori, dentro i grandi o piccoli anche centri di accoglienza, vengono contattati e gli viene chiesto se vogliono andare a lavorare. Ora si capisce che in situazioni come quella di accoglienza, per esempio come quella del centro Mattei, di cui abbiamo denunciato le condizioni, risulta molto difficile dire di no, sia perché sono talmente appunto precarie che comunque quei soldi che ti puoi fare anche con contratti settimanali vengono comunque bene, e per il solito e costante problema di ottenere un permesso. Adesso grazie alle lotte che ci sono state, per esempio il Centro Mattei ha visto assegnare moltissimi permessi di soggiorno di durata biennale, di solito con la speranza appunto che possano diventare permessi, essere trasformati in permessi per lavoro. Ovviamente questo fa sì che tutti i richiedenti asilo che hanno avuto questo tipo di permesso hanno bisogno di lavorare per riuscire a continuare ad essere regolari e rimanere sul territorio italiano.